sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lars, ogni giorno della sua vita, ha praticato quel che forse ogni cane sa fare più di ogni altro essere vivente. Quel loro strano, prezioso e paziente esercizio della compagnia. Ciao, sono Luca, ho 39 anni e anche se sono aretino di origine vivo a Firenze con tre bellissime donne, mia moglie Ilenia e le mie figlie Gai e Eir. Nella vita faccio il cinofilo antiesplosivo in polizia e cerco di resistere agli attacchi della mia mezza età. Non è facile, non è facile, bisogna trovare il modo per farlo, ognuno ha il proprio modo per farlo soprattutto, però può anche essere un momento per certi versi liberatorio, per certi versi addirittura di riconciliazione. Dire addio a qualche cosa o a qualcuno non è una cosa semplice, dicevo, però capita di farlo. Se l'avete fatto di recente, 349-238-6666. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, quello che parla è Matteo Caccia, cioè sono io. Di là dal vetro c'è tutta la redazione di Voi Siete Qui, non proprio tutto in realtà, Bonini oggi non c'è, ci sono Paolino Corleoni e Miriam Lucchetti. E oggi raccontiamo una storia che l'avete sentito dalla sua viva voce, la storia di Luca, che parla di dire addio nella fattispecie a un cane. È un momento che devo dire è un momento difficile per chi lo vive, ma è un momento che Luca racconta con un garbo e una leggerezza di cui lo ringraziamo, perché non è facile trovare il modo per raccontare momenti complicati, momenti di addio, appunto, di saluto, e di farlo con questo garbo. Ripeto, 349-238-6666 oppure il profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24 o il profilo Twitter Voi Siete Qui R24. A che cosa avete detto o state dicendo addio? Alfredo dice a mia moglie, Oriana, sto dicendo addio ma non ci dice a chi. Su Facebook Francesca invece dice: sto elaborando di dire addio alla Y10 che guido dal 1996. Sono momenti, sono quasi 20 anni. Dire addio non è facile. Luca ha usato queste parole e queste immagini per raccontarci dell'addio a Lars. Tutto è iniziato quando, in un luogo fino ad allora me sconosciuto, Scurcola Marsicana, un piccolo paesino nel cuore della Marsica, ero arrivato dopo aver letto un annuncio online di una cucciolata di Jack Russell. Dopo un viaggio di quasi 5 ore, le nostre vite si sono incrociate. Con mia moglie avevamo perso da poco un bimbo, o meglio, quello che prima o poi lo sarebbe dovuto diventare. E forse in maniera inconscia e infantile abbiamo deciso di sopperire alla mancanza di un piccolo essere umano da accudire, decidendo di prenderci cura di un cane. Io ne ho avuti, ho avuto Labrador, che sono i cani con i quali lavoro, e alla fine abbiamo scelto Jack Russell perché volevamo un cane di taglia piccola ma che fosse un cane a tutti gli effetti, proprio come carattere. Dopo le presentazioni di rito con l'allevatore e dopo aver attraversato un piccolo sentiero dietro casa che portava ad una specie di recinto, ecco che al rumore dei nostri passi risposero i guaiti di 6 piccoli cuccioli che si avvicinarono alla porta del recinto. Aperta la porta, tutti fuori e tutti attorno alle nostre gambe, escluso uno. Quello un po' più cicciotto degli altri e con una macchia rosa sull'occhio destro. Ecco, lui è Lars. Era il più indipendente della cucciolata. L'unico che, a differenza dei suoi fratelli, sembrava avere più curiosità di tutto ciò che era al di fuori della sua cuccia e del suo recinto. Di quei 2 strani esseri umani che si erano chinati per accarezzare lui e i suoi fratelli, se ne infischiava altamente. C'era un mondo là fuori, e delle carezze dei 2 estranei non ne sentiva certo il bisogno. L'allevatore ce lo indicò come un soggetto particolare, con un difetto fisico, una mancata pigmentazione della palpebra destra, il meno bello a causa di quel piccolo difetto. Ma dopo pochi minuti eravamo già tutti in auto, direzione Firenze, pronti a portare nelle nostre vite quel piccolo difetto. E quel difetto ce lo siamo poi portati a casa, ci siamo conosciuti, ci siamo capiti e ci siamo amati. Ci ha accompagnati e tenuto compagnia in quei momenti, quando non volevamo ricordare o pensare. E poi ci ha accompagnato anche dopo, nelle 2 successive gravidanze. Entrambe andate a buon fine, durante le quali si è adattato a noi come un fluido. Con me una scarica di energia al parco dove mi faceva pensare a nulla. Un divanoide invece con mia moglie, nelle loro lunghe sedute di riposo pomeridiano davanti alla TV. Ha poi salutato l'arrivo in casa delle nostre due figlie, Gaia ed Egle, con le quali ha giocato e a volte ho temuto per la sua incolumità. Ma soprattutto, ogni giorno della sua vita, ha praticato quel che forse ogni cane sa fare più di ogni altro essere vivente. Quel loro strano, prezioso e paziente esercizio della compagnia. I problemi sono quelli che dà un cane che è estremamente vivo, che tutto quello che trova prova a mangiare, a ingurgitare, prova a fare quello che gli pare, e fondamentalmente diciamo che tutto quello che gli passa per la testa è giusto da fare e tutto quello che gli passa per la testa è da fare. Oggi però no, oggi non lo può più fare. Purtroppo, come quel giorno di quasi 5 anni fa, se n'è infischiato di tutto. E come allora la sua curiosità lo ha portato fuori dalla sua cuccia e lì sulla strada, inseguendo chissà quale inutile cosa. E una macchina se l'è portato via da noi. Ed ora noi siamo qui, io e lui, uno accanto e l'altro disteso su un lettino di una clinica veterinaria. Intorno c'è uno strano silenzio e odore di formaldeide. Le mie mani lo accarezzano e anche loro cercano di esercitare una loro memoria per ricordarsi della sensazione del suo pelo. Anche loro cercano di trattenere qualcosa di lui da questo lato del mondo. Il suo cuore ha appena smesso di battere, mentre io ho appena iniziato a tirare su con il naso, a sentire scorrere sulle guance delle pesantissime e salatissime gocce. Bella foto, è un mini ritratto di famiglia. Ci sono Luca, ovviamente con una barba un po' incolta e giusto un accenno di pizzetto, degli occhiali scuri, sulle spalle direi, uno zaino con dentro, immagino, una delle sue figlie, e invece in braccio, bello baldanzoso come i Jack Russell sanno essere, Lars. Pronto Luca? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Sto benone, benone, dai. Dove sei? Dove ti trovi? Sono in macchina, sono fermo, perché chiaramente bisogna rispettare bravo, le regole. E stai andando dove? Vieni da dove? Sono appena arrivato a casa, sono fermo in auto prima di rientrare a casa. Okay. Voglio evitare di piangere con mia moglie. Senti, perdonami, io non mi ricordo mai quando arrivano le storie, perché sai, arrivano insieme e poi le cerchiamo di dipanare nell'arco della stagione. Mi ricordi quando è successa questa cosa e quindi quando mi hai scritto la storia? È successo quest'estate, a luglio, è successo tra l'altro nel giorno del battesimo di mia figlia Egle. Che è quella nella foto, Egle, quella più piccola? No, Egle è la sorella, questa qui è Gaia, quella nella foto, Egle okay. È la più piccola. Ok, quindi questa diciamo, era la prima nascitura questa? Sì, è la okay. prima nascitura. Ok, ed è successo, come diavolo ha fatto? Ha sentito un rumore, è uscito, è scappato? Si è aperto durante la festa praticamente del battesimo. Si è aperto il cancello di casa dei miei suoceri, dove eravamo. E, sì, e una casualità, ovviamente, certo. Sì. Certo. Però la cosa che succede, ricordo perché appunto quando io ero piccolo, io ce l'ho adesso un cane, ma ero piccolo quando ce l'avevo, è di fatto un lutto a tutti gli effetti quando ti manca un animale come quello, però poi quello che rimane quando è passato quel lutto iniziale è sempre un ricordo eccezionale di quell'essere vivente che in qualche modo ti è stato vicino e si intravede già dalle tue parole, anche se l'avevi scritto a ridosso, no, di quel momento. Cioè voi ovviamente di Lars avete un'immagine e un ricordo cristallino e caloroso, immagino, caldo. Beh, no, ma sicuro, anche perché era veramente, cioè, non si poteva non notare in casa, non si poteva non notare in famiglia. Le figliole, una l'ha conosciuto poco, l'altra l'ha massacrato fondamentalmente. Come sono i Jack Russell coi bambini? Sono pazienti? Ma lui era molto paziente, era veramente. Lui ha regalato a Gaia veramente il sogno reale di fare la veterinaria, con grande pazienza, perché lui si faceva curare in tutto e per tutto, si faceva. Quindi lei ha già deciso che fa la veterinaria? Non lo Lo so. Altri anni e mezzo. È un po' prestino, direi. Però potrebbe essere una strada interessante. Luca, invece, mi spieghi, perché tu sei uno che i cani li conosci bene, perché ci lavora. Mi spieghi esattamente che cosa fai? Allora, io faccio il cinofilo antiesplosivo in polizia, ovvero ho un cane con il quale faccio ricerca armi ed esplosivi e ci addestriamo tutti i santi giorni, E il cane è di fatto è come se fosse tuo, o no? Praticamente sì, cioè è del Ministero dell'Interno, certo. È dell'amministrazione della polizia, deve rimanere a dormire dentro le strutture dell'amministrazione della polizia, però lavoriamo tutti i giorni insieme, tutti i santi giorni, quindi... E come si chiama il cane? Si chiama Sansone. Ed è un... non ti dico con cosa fa rima perché... Oh, benissimo. Senti, ed è un cane, ed è un Labrador, giusto? È un Labrador nero di 4 anni che fra l'altro ha una storia interessante perché non è stato acquistato ma è stato donato dopo aver distrutto una casa. Era un po' irrequieto e è stato arruolato. E mantiene quel carattere o sei riuscito ad addomesticarlo un po'? È migliorato. No, è molto bravo nel lavoro, fuori tutto quello che può sbagliare lo sbaglio, però l'importante è che sia bravo nel lavoro. Luca, ma il lavoro per loro è un gioco, giusto? Correggimi se sbaglio, cioè loro cercare un esplosivo è come cercare qualcosa perché poi vengono premiati, funziona così o sto dicendo? Sì, no, lui praticamente per quello che riguarda la nostra specialità tutti i giorni fa questo gioco di ricerca e ogni volta che trova mangia delle crocchette, e in questo modo lui... esaurisce la sua reazione di cibo durante il giorno. Quindi addirittura non mangia, mangia solo durante il gioco, durante il lavoro. Sansone è più di un anno che non vede una ciotola con le crocchette, mangia solo in questo modo, però gli piace molto. Immagino. Luca, grazie mille davvero per la storia e in bocca al lupo per tutto e per la tua famiglia. Ok, grazie a voi per averla letta e aver ricordato la di cosa. È importante anche questo per me. Ciao Luca. Ciao. C'è un libro che non parla di cani, è un libro che parla di una vita, parla di un essere umano, parla di un uomo, parla di una vita rovinata per via di un sospetto terribile. È la storia di un docente universitario che è accusato di molestie nei confronti di una studentessa, quindi viene allontanato dall'università, allontanato dal suo lavoro e in qualche modo allontanato dalla sua vita. Il libro si intitola Vergogna. Lo ha scritto un autore sudafricano che ha vinto pure un Nobel, credo più o meno in prossimità dell'uscita di quel libro. Il Nobel per la letteratura, ovviamente. Si chiama John Maxwell Coetzee. Nella parte finale di questa storia, il protagonista, che è l'ex professore David Lurie, incontra una veterinaria che, per rispondere ad una legge di quel paese, è costretta a sopprimere cani randagi dopo un lasso di tempo oltre il quale nessuno è venuto a reclamarli. Lui instaura una relazione con lei e sta con lei anche quando, con una forma di pietà amorosa, lei fa l'ultima iniezione a questi animali. Durante il tempo trascorso insieme a lei, David fa amicizia con un piccolo cane, un po' storpio, che non si capisce perché si affeziona a lui, nonostante lui non faccia nulla per avere quell'affetto. E l'ultima pagina, le ultime righe di quel romanzo, raccontano di fatto la fine dell'amicizia tra il cane e il professore. E anche se non ha nulla in comune con la storia di Luca, perché è un'altra storia, il modo in cui Coetzee descrive la scena nasconde in qualche modo una forma di amore. Tenetevi forte, perché queste sono le ultime righe del libro. Quello che il cane non riuscirà mai a capire, nemmeno in mille domeniche, pensa David, ciò che il suo naso non saprà spiegargli, è come sia possibile entrare in una stanza all'apparenza normale e non uscirne più. In quella stanza succede qualcosa di innominabile. L'anima viene strappata dal corpo. Resta per un attimo sospesa nell'aria, torcendosi, deformandosi, e poi viene risucchiata e sparisce. David potrebbe risparmiare il cane storpio per un'altra settimana, ma verrà comunque il momento inevitabile in cui dovrà portarlo da lei, dalla veterinaria, in sala operatoria. Forse lo prenderà in braccio, forse per lui farà anche questo. In quel momento dovrà accarezzarlo e tirare indietro il pelo, perché l'ago trovi la vena, per poi bisbigliargli nell'orecchio e confortarlo nel momento in cui, inaspettatamente, le zampe gli cederanno. David apre la porta della gabbia. «Vieni», dice. Si china e apre le braccia. Il cane scuote il di dietro sciancato, gli annusa la faccia, gli lecca le guance, le labbra, le orecchie. David lo lascia fare. «Vieni». Portandolo fra le braccia, ritorna nell'ambulatorio. Pensavo che volessi risparmiarlo per un'altra settimana, dice lei. O hai deciso di abbandonarlo al suo destino? Sì, è pronto. Lo abbandono al suo destino. E alla fine, dalla storia di Luca, ho capito che, primo, i cani che spiccano nel bene o nel male, nelle cucciolate, sono quelli che piacciono di più, sempre. Secondo, 5 anni sono troppo pochi per godersi qualcuno a cui si vuole bene. Terzo, quando prendi un cane, è meglio farlo senza pensarci. Quarto, quando pensi a un cane, è meglio prenderlo il prima possibile. E quinto, per i cani si piange tanto da bambini quanto da adulti. E al di là dei messaggi che ricordano i propri cani, insomma, sorvogliamo che sono strappalacrime, si parla di persone a cui si è voluto bene, a cui si dice addio, si parla di religione, sto dicendo addio alla religione dopo 52 anni, sul profilo Facebook invece ho detto addio alla mia amata libera professione, quel segno dei tempi, Piero, ho detto addio alla libera professione, troppe tasse, ora cerco un lavoro dipendente, guadagno sicuramente di più. Ed è con questo messaggio che lasciamo la linea a Oscar Giannino, in una sorta di continuità incredibile. Io ringrazio tutti quelli che fanno il programma. Ricordo, visto che me lo chiedete già, che il libro da cui ho tratto l'ultimo racconto si chiama Vergogna, poi edito da Einaudi. L'autore si chiama John Maxwell Coetzee, con due E finali. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, anche se non è qui con noi. Grazie soprattutto a Luca, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Alberto, vivo a Prato, la storia di domani è la mia e parla di un viaggio avventuroso a Girona, in Spagna. Questa è la mia storia e io sono qui.